Suonello ad alta voce. Tony Servillo legge I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe. Traduzione di Paola Capriolo. 13 luglio. No, non mi ingannavo. Nei suoi occhi neri leggo un autentico interessamento per me e per il mio destino. Sento davvero, e in ciò posso prestar fede al mio cuore, che ella mi è lecito. Mi è possibile esprimere il paradiso in queste parole. Che ella mi ama. Mi ama. Come sono divenuto caro a me stesso. Come a te oso dirlo, tu sai comprendere cose del genere. Come adoro me stesso da quando lei mi ama. È forse presunzione? Oppure è intuizione della verità? Non conosco l'uomo di cui temevo l'influsso sul cuore di Lotte. Tuttavia, quando lei parla del suo fidanzato, quando ne parla con tanto affetto, con tanto amore, mi sento come uno che sia derubato dell'onore e della dignità e a cui per giunta venga sottratta la spada. 16 luglio. Ah, quale brivido mi scorre per tutte le vene. Se le mie dita sfiorano improvvisamente le sue, se i nostri piedi si incontrano sotto la tavola. Mi ritraggo come dal contatto con il fuoco e una forza misteriosa mi spinge di nuovo in avanti. Tutti i miei sensi sono presi da questa vertigine. E la sua innocenza, la sua anima pura, non sente quanto quelle piccole libertà mi tormentino. Quando, mentre conversiamo, posa addirittura la mano sulla mia e nella foga della discussione mi si fa così vicina che il divino respiro della sua bocca può raggiungere le mie labbra, allora mi pare di sprofondare come colpito dal fulmine. E Wilhelm, questo paradiso, questa fiducia, se mai un giorno avessi il coraggio di... Tu mi capisci? No, il mio cuore non è così corrotto, ma è debole, molto debole. E questa non è forse corruzione? Ella mi è sacra. Ogni desiderio tace al suo cospetto. Non so mai cosa provo quando sono con lei. È come se l'anima mi si riversasse in ogni nervo. C'è una melodia che suona al pianoforte con l'intensità di un angelo, così semplice e così spirituale. È la sua aria preferita e a me basta che lei ne accenni anche solo la prima nota per guarire da ogni pena, turbamento o fisima. Nulla di quanto è stato detto sul potere magico dell'antica musica mi appare inverosimile. Come mi avvince quel semplice canto e con quanta sicurezza lei sa quando è il caso di eseguirlo, spesso proprio nel momento in cui vorrei spararmi una pallottola in testa. L'errore e la tenebra della mia anima si disperdono e io respiro di nuovo. Più liberamente. 18 luglio. Wilhelm, che cos'è per il nostro cuore il mondo senza l'amore? È una lanterna magica senza luce. Appena metti dentro il lume ti appaiono le immagini più variopinte sulla tua bianca parete. E anche se non fossero altro che questo, nient'altro che fantasmi effimeri, ci farebbe pur sempre felici stare lì davanti come giovinetti ingenui ed entusiasmarci per le apparizioni miracolose. Oggi non potei recarmi da Lotte. Un ineludibile impegno sociale me lo impedì. Cosa potevo fare? Mandai il mio servo, al solo scopo di avere presso di me qualcuno che oggi le fosse stato vicino. Con quanta impazienza lo attesi, con quanta gioia lo rividi. Gli avrei preso la testa fra le mani e l'avrei baciato se la vergogna non mi avesse trattenuto. Si narra della pietra di Bologna, che, se viene posta al sole, ne cattura i raggi e per un po' risplende anche di notte. Così era per me quel ragazzo. Sapere che gli occhi di lei si erano posati sul suo volto, sulle sue guance, sui bottoni della giacca e sul collo del soprabito mi rendeva tutto ciò così sacro, così prezioso. In quel momento non avrei rinunciato al giovane in cambio di 1000 talleri. Stavo così bene in sua compagnia. Dio ti guardi dal riderne, Wilhelm. Sono forse fantasmi, se ci fanno stare bene. 19 luglio. La vedrò, esclamo al mattino quando mi sveglio. E in perfetta letizia volgo lo sguardo allo splendore del sole. La vedrò. E poi per l'intera giornata non ho altri desideri. Tutto è assorbito da quella visione. 20 luglio. Non riesco ancora ad accettare la vostra idea che io vada presso l'ambasciatore. La subordinazione non mi piace troppo e voi tutti sapete che per giunta quell'uomo è assai sgradevole. Mia madre sarebbe lieta di sapermi attivo, dici tu, e ciò mi ha fatto ridere. Non sono forse attivo anche adesso? E in fondo non è lo stesso secondo Piselli o Lenticchie? Tutto a questo mondo si riduce a un'inezia e chi per far piacere ad altri, senza che ciò corrisponda ad una propria inclinazione o a un proprio bisogno, si ammazza di lavoro per procurarsi denaro o onore o qualsiasi altra cosa, è comunque un pazzo. 24 luglio. Poiché ti sta tanto a cuore che io non trascuri il disegno, Preferirei tacere del tutto su questo argomento, invece di confessarti quanto poco io abbia fatto finora. Mai ero stato così felice. Mai la mia percezione della natura, fino alle più piccole pietruzze, ai più sottili fili d'erba, era stata così piena e intensa. Eppure, non so come esprimermi, la mia facoltà di rappresentazione è talmente debole, ogni cosa ondeggia e vacilla a tal punto davanti al mio spirito che non riesco a fissare i contorni. Ma mi illudo che, se avessi creta o cera, saprei ben dare una forma a tutto ciò. E se continua di questo passo, mi procurerò davvero la creta e mi metterò a impastare, anche se dovessero venire fuori soltanto torte. Ho iniziato 3 volte il ritratto di Lotte e 3 volte mi sono reso ridicolo. La qualcosa è tanto più irritante in quanto ultimamente ero diventato molto abile a cogliere le fisionomie. Allora ho disegnato la sua silhouette e di questa devo accontentarmi. 26 luglio. Sì, cara Lotte, eseguirò e sistemerò tutto. Le chiedo solo di affidarmi ancora commissioni, di affidarmene molto spesso, ma di una cosa la prego. Non metta più la sabbia sui bigliettini che mi scrive. Oggi l'ho portato rapidamente alle labbra e i denti mi scricchiolavano. 26 luglio. Già molte volte mi sono prefisso di non vederla così spesso. Ma chi potrebbe tener fede a un simile proposito? Ogni giorno cedo alla tentazione e mi riprometto solennemente, domani non ci andrò. E quando viene l'indomani trovo di nuovo un motivo imprescindibile e senza quasi rendermene conto sono da lei. O perché la sera prima lei ha detto verrà domani? E allora chi potrebbe non andare? Oppure perché mi affida un'ambasciata e mi sembra cortese portarle di persona la risposta? Oppure la giornata è davvero troppo bella e vado a Valheim e quando vi giungo sono solo a una mezz'ora da lei, sono troppo vicino alla sua atmosfera e zac, eccomi là. Mia nonna sapeva una fiaba su una montagna magnetica. Alle navi che le si avvicinavano troppo venivano sottratte di colpo tutte le parti di metallo, i chiodi volavano verso la montagna e gli sventurati naviganti naufragavano fra le assi che crollavano l'una sull'altra. Luglio. Albert è arrivato e io me ne andrò. Anche se fossi il migliore e il più nobile degli uomini, anche se fossi disposto a considerarmi inferiore a lui sotto tutti gli aspetti, mi sarebbe insopportabile vedermelo davanti agli occhi in possesso di tante perfezioni. Possesso. Basta, Willem, il fidanzato è qui. Una brava cara persona con la quale bisogna comportarsi bene. Per fortuna non c'ero quando lei lo accolse, mi avrebbe spezzato il cuore. E per giunta è così onesto. In mia presenza non ha ancora baciato Lotte nemmeno una volta. Dio gliene renda merito. In nome del rispetto che dimostra a quella fanciulla, devo amarlo. Lui mi vuole bene, più per opera di Lotte, immagino, che per un suo sentimento spontaneo, perché in questo le donne sono perspicaci e hanno ragione. Se riescono a mantenere 2 ammiratori in buoni rapporti reciproci, la cosa, per quanto raramente riesca, torna sempre al loro vantaggio. In ogni caso, non posso negare ad Albert la mia stima. Il suo contegno tranquillo contrasta in modo nettissimo con quell'inquietudine del mio carattere che non riesco a nascondere. È molto affettuoso e consapevole di quale tesoro abbia in Lotte. Sembra assai poco soggetto al malumore e tu sai che quest'ultimo è per me il più detestabile fra tutti i peccati dell'uomo. Mi considera una persona intelligente e la mia devozione verso Lotte, la gioia intensa che provo a ogni suo gesto, accrescono il suo trionfo, gliela fanno amare ancora di più. Chissà che egli non la tormenti a volte con piccole gelosie. Su questo non posso dir nulla. Io, quantomeno al suo posto, non sarei del tutto al sicuro dagli assalti di quel demone. Ma comunque lui la pensi, la mia gioia di stare accanto a Lotte è perduta. Devo definirla follia oppure cecità? Ma a che servono i nomi? I fatti parlano da soli. Io sapevo tutto ciò che so ora, anche prima dell'arrivo di Albert. Sapevo di non poter avanzare alcuna pretesa su di lei, e infatti non ne avanzavo, almeno per quanto è possibile soffocare il desiderio dinanzi a tanta leggiadria. E ora questo pagliaccio, questa caricatura d'uomo, sgrana gli occhi perché l'altro arriva davvero e gli porta via la ragazza. Io stringo i denti e schernisco la mia sventura. E schernirei 2 volte tanto, 3 volte tanto chi mi dicesse che devo rassegnarmi, perché ormai non c'è niente da fare. Levatemi di torno questi fantocci. Vago per i boschi e quando arrivo a casa di Lotte e Albert le siede accanto in giardino sotto le fronde e io non riesco più a dominarmi, allora mi scateno a fare il buffone e incomincio con gli scherzi e con i discorsi ingarbugliati. La prego, per l'amor di Dio, mi ha detto oggi Lotte, niente più scene come quella di ieri sera. Lei è terribile quando è così allegro. Detto fra noi, io me ne resto appostato in attesa che lui abbia qualche impegno altrove e zac, corollà. E sto sempre bene quando la trovo sola. 8 agosto. Ti prego di credermi, Willem. Non mi riferivo certo a te quando dicevo insopportabili quelle persone che pretendono da noi la rassegnazione di fronte a un destino cui non si è in grado di rimediare. Davvero non mi è venuto in mente che tu potessi essere di un'opinione simile. E in fondo hai ragione. Ma considera solo una cosa, caro amico. Il mondo procede assai di rado in base agli out-out. Sentimenti e azioni hanno sfumature così molteplici come le forme intermedie fra il naso aquilino e quello camuso. Perciò non devi avertene a male se ti do ragione su tutti i punti e ciò nonostante tento di intrufolarmi fra l'uno e l'altro out. O, dici tu, hai qualche speranza su Lotte oppure non ne hai. Bene. Nel primo caso, insegui quella speranza, persegui l'adempimento dei tuoi desideri. Nel secondo caso, fatti coraggio e cerca di sbarazzarti di questo sentimento sfortunato destinato a consumare ogni tua forza. Carissimo, tutto ciò è ben detto e presto detto. Dall'infelice la cui vita si spegnesse gradualmente, inarrestabilmente, corrosa da una subdola malattia, pretenderesti forse che mettesse subito fine ai tormenti con un bel colpo di pugnale? E il male? Consumandogli le forze, non gli toglie insieme il coraggio di liberarsene? È vero, potresti rispondere con un paragone analogo. Chi non preferirebbe farsi amputare un braccio piuttosto che rischiare la vita per una vile esitazione? Non saprei. E poi non voglio litigare a suon di paragoni, basta così. Sì, Willem, ho spesso simili momenti di coraggio vigoroso, liberatore, e in quei momenti, se solo sapessi dove, me ne andrei volentieri. Oggi mi è capitato di nuovo fra le mani il mio diario, che da qualche tempo trascuravo, e mi sono stupito osservando come io mi sia messo in questa situazione del tutto deliberatamente, passo dopo passo, come io abbia sempre veduto la mia condizione con assoluta chiarezza, eppure abbia agito allo stesso modo di un bambino, e come anche adesso io veda tutto con assoluta chiarezza, eppure non vi sia ancora il minimo segno di miglioramento. 10 agosto. Potrei condurre la vita più bella e più felice se non fossi un pazzo. Non è facile vedere riunite per rallegrare l'anima di una persona circostanze così favorevoli come quelle in cui ora mi trovo. Purtroppo non c'è dubbio che il nostro cuore sia l'unico artefice della propria felicità. Fare ormai parte di quell'adorabile famiglia, essere amato dai vecchi come un figlio, dai bambini come un padre e da Lotte. E poi il buon Albert, che non turba la mia felicità con capricciose scortesie, che mi circonda di un'affettuosa amicizia, che secondo Lotte mi ha più caro di chiunque altro al mondo. Willem, è un piacere ascoltarci quando passeggiando discorriamo fra di noi di Lotte. Sulla terra non è mai stato inventato nulla di più ridicolo di questo nostro rapporto. E tuttavia, se ci penso, mi vengono spesso le lacrime agli occhi. Quando egli mi racconta della buona e onesta madre di lei, di come sul letto di morte avesse affidato a Lotte la propria casa e i propri figli, e Lotte a lui, di come da quel momento la fanciulla fosse stata animata da uno spirito del tutto diverso e per la sollecitudine e la serietà di cui dava prova nel governo della casa fosse divenuta una vera madre, di come non lasciasse trascorrere neppure un istante del suo tempo senza lavorare, senza manifestare attivamente il suo amore, e ciò nonostante conservasse sempre l'allegria e la vivacità. Io gli cammino accanto e colgo fiori lungo la strada, li dispongo accuratamente in un mazzo e li getto nel fiume che scorre lì vicino. Li seguo con lo sguardo mentre scendono verso la valle galleggiando leggeri. Non so se ti ho già scritto che Albert resterà qui e riceverà una carica con un buon reddito dalla corte, dove è molto ben voluto. Quanto a precisione e solerzia nel condurre gli affari, ho visto pochi che reggessero il confronto con lui. 12 agosto. Albert è certamente l'uomo migliore che vi sia al mondo. Ieri si è svolta fra noi una scena singolare. Andai da lui per congedarmi perché mi aveva preso la voglia di recarmi a cavallo sulla montagna, dalla quale anche ora ti scrivo. E mentre camminavo su e giù per la stanza, mi caddero sotto gli occhi le sue pistole. «Prestami le pistole», dissi, «per il mio viaggio». Fa pure, rispose. Se vuoi prenderti il disturbo di caricarle, io le tengo lì appese soltanto pro forma. Ne staccai una dalla parete e lui continuò. Da quando la mia prudenza mi ha giocato un così brutto tiro, non voglio più aver nulla a che fare con quegli arnesi. Ero curioso di conoscere la storia. Per circa 3 mesi, raccontò Albert, soggiornai in campagna presso un amico. Mi tenevo accanto un paio di terzette scariche e dormivo tranquillo. Una volta, in un pomeriggio piovoso, mentre me ne sto in ozio, chissà perché, mi viene in mente che qualcuno potrebbe aggredirci, che potremmo aver bisogno delle terzette e potremmo... Tu sai, no? Come vanno queste cose. Le diedi al domestico perché li pulisse e ricaricasse e quello si mette a fare l'idiota con le ragazze, vuole spaventarle e Dio sa come parte un colpo mentre la bacchetta di caricamento è ancora infilata dentro e la bacchetta colpisce una ragazza alla mano destra e le rompe il pollice. Dovetti sorbirmi le lamentele e per giunta pagare le cure e da allora tengo sempre le armi scariche. Amico mio, a che serve la prudenza? Non si possono mai prevedere tutti i pericoli, sebbene... Ora tu sai che quell'uomo mi è molto caro, ma non così i suoi sebbene. Infatti non è già evidente di per sé che ogni proposizione generale ammette eccezioni? Ma lui è talmente circospetto. Se Albert crede di aver detto qualcosa di avventato, di astratto, di approssimativo, non la finisce più di apportare restrizioni e modificazioni, di togliere da una parte e aggiungere dall'altra, affinché della sua tesi non rimane più nulla. E quella volta si addentrò a tal punto nell'argomento che alla fine smisi di ascoltarlo. Mi immersi nelle mie fantasticherie e con un gesto impulsivo mi puntai la canna della pistola alla fronte, sopra l'occhio destro. «Smettila», disse Albert, togliendomi la pistola di mano. «Che cosa ti salta in mente?» «Non è carica», replicai. «Anche se non è carica, cosa ti salta in mente?» ribatté lui spazientito. «Non riesco a immaginarmi come un uomo possa essere così folle da spararsi. Il solo pensiero mi suscita disgusto». Che voi altri, esclamai, parlando di una cosa, dobbiate subito dire questo è folle, questo è ragionevole, questo è bene e questo è male. Ha forse un senso tutto ciò? Con ciò avete forse indagato i movimenti interiori di un'azione? Sapete forse determinare esattamente le cause per cui è stata compiuta, per cui doveva essere compiuta? Se così fosse, non sareste tanto sbrigativi nei vostri giudizi. Mi concederai, rispose Albert, che certe azioni restano delittuose, qualunque sia il movente per cui si compiono. Glielo concessi, stringendomi nelle spalle. Eppure, mio caro, continuai, anche in casi simili si possono trovare eccezioni. Il furto è certamente un delitto, ma l'uomo che si risolve a rubare per evitare a sé e ai suoi cari di morire di fame merita castigo o pietà? E chi scaglierà la prima pietra contro il marito spinto da una giusta collera a immolare la sposa infedele e il suo abietto seduttore? O contro la fanciulla che in un'ora colma di voluttà si è perduta nelle gioie amorose? Persino le nostre leggi, queste pedanti senza sangue nelle vene, si fanno commuovere e mitigano il loro castigo. È una questione del tutto diversa, ribatté Albert, perché un uomo travolto dalle proprie passioni perde ogni consapevolezza morale e può essere considerato alla stregua di un ubriaco o di un pazzo. Voi persone ragionevoli, esclamai sorridendo. Passione, ubriachezza, pazzia. Ve ne state lì così placidi, così privi di umana simpatia. Voi uomini costumati proverate il bevitore, esecrate il folle, passate oltre come il sacerdote o come il fariseo. Ringraziate Iddio di non avervi fatti simili a loro. Io mi sono ubriacato più di una volta. Le mie passioni non sono mai state troppo lontane dalla follia e non provo alcun rimorso né per l'una né per l'altra cosa. Poiché nella piccola misura a me concessa, ho imparato a capire per quale motivo tutti gli uomini straordinari, i quali compirono qualcosa di grande, di apparentemente impossibile, dovettero sempre venir presi per pazzi o per ubriachi. Ma anche nella vita comune è intollerabile che se qualcuno si accinge a compiere un gesto libero, nobile, inatteso, si senta gridare quasi sempre alle sue spalle «Quell'uomo è ubriaco, è matto dalle gare, vergognatevi voi sobri, vergognatevi voi savi!»